Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Sei ritornata finalmente, sì. Pensavi di scamparlo il Salone del Risparmio, invece ti ho ritrascinato qua in questo bell'ambiente. Molto molto molto bello. Grande vivacità, grande partecipazione, siamo all'ottava edizione del Salone del Risparmio, appunto edizione 2017, e oggi ci ritroviamo qua a discutere un po' dei grandi macro temi dell'industria, delle esigenze dei risparmiatori. Ieri in tua assenza mi sono occupata di due grandi indagini che raccontano un po' cosa provano gli italiani in questo momento quando pensano a sé come risparmiatori. In podcast. Ma levati, ma questa proprio veramente la battuta non del giorno, dell'anno direi, del secolo. Mi viene un po' caldo, però guarda, senti un po', perché mi stai raccontando una favola. Sì, la favola che tu mi racconti Pinocchio. In podcast. Infatti là il naso è praticamente fuoriuscito dalla fiera di Milano, dalla vecchia fiera, dal Mico. Allora, noi oggi ci occupiamo, lo anticipo solo velocemente, di favole e risparmio, perché vogliamo provare a raccontare ai nostri ascoltatori anche le questioni finanziarie utilizzando dei linguaggi semplici. Anche l'industria del risparmio gestito ci prova, provando ad essere divulgativa quanto più possibile, quindi vi racconteremo l'esperienza di una società che fa questo. E poi avremo invece dalle 11 in avanti nostro ospite, il padrone di casa, il presidente di Assogestioni, che è anche amministratore delegato di Eurizon, Tommaso Corcos, e ci faremo raccontare i temi più importanti di questo salone, a partire dal lancio a razzo, direi, dei PIR, i piani individuali di risparmio, e tante altre cose. Tu che cosa ci Allora, proponi? Io prendo spunto dalle tue favole, e in chiusura, insieme ad Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell'età evolutiva, parleremo di favole che aiutano a crescere, e forse di quella favola che ha aiutato anche a noi a diventare grandi. Benissimo. Tra l'altro, ieri qui al Salone, forse c'è anche oggi, è venuta a trovarci Emanuela Rinaldi, che è una ricercatrice universitaria che ha scritto il libro Fiabe e Denaro per Patti Chiari, per appunto per l'Associazione delle Banche Italiane. Molto carino, noi ne abbiamo parlato anche altre volte, ormai è un'edizione che circola da un po', ma è tra l'altro online, gratuita, per cui è un modo per raccontare ai bambini le questioni finanziarie, mutuando sempre dalle favole, un po' come ha fatto anche la nostra ospite di oggi, che fra un attimo vi saluto, potrei farlo subito, Laura Nateri, buongiorno. Buongiorno. Country Head per l'Italia di Aberdeen, che è una società di gestione del risparmio scozzese. Esatto. Ho detto tutto correttamente. Tutto perfetto. Naturalmente però abbiamo anche la rappresentanza italiana. Allora, anticipavo poco fa, siamo alla seconda giornata del Salone del Risparmio, ieri abbiamo avuto l'inaugurazione del Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan. Molte indagini, molte iniziative, le società presentano molte nuove soluzioni di investimento, è sicuramente una vetrina con un'enorme partecipazione, molte tavole rotonde, molte anche le star, perché l'industria ha portato con sé personaggi celebri come i testimonial, c'è persino Carlo Cracco, chissà cosa che fa con la... piace, va? C'è tanta roba, direi. C'è Bebe Vio. Ieri ho incontrato ad un evento organizzato da Anima SGR l'amministratore delegato di Argotech, perché te lo racconto, te l'ho forse già anticipato Nicoletta nei giorni scorsi, perché è la società che produce i pasti spaziali. Sì, abbiamo parlato, e dove c'è anche, lavora anche Stefano Polato. Infatti mi hanno dato anche una barretta energetica proprio preparata nella combinazione appunto delle componenti nutrizionali. E tu ti senti una donna spaziale. Esatto, ho fatto ieri una trasmissione senza di te, eccezionale. Stellare. Invece Aberdeen prova a portare questa mattina Elio e le storie tese, non siamo riusciti a portarli qua in trasmissione, però un po' come mai servono, Nateri, questi testimonial per raccontare la finanza? Ma perché secondo me bisogna, per dare accessibilità e ampliare il pubblico del risparmio gestito dalla finanza, ci vuole anche un po' di education con un linguaggio semplice. D'altronde in America Warren Buffett ha fatto dei cartoni animati sull'investimento azionario per i bambini. Bene. Quindi evidentemente l'animation, come sempre, arriva diretta, e noi l'abbiamo fatto indipendentemente da Elio, l'abbiamo, e non è il primo anno, abbiamo animato le nostre 10 regole d'oro per investire in azioni, abbiamo animato i 7 vizi capitali da evitare, e quest'anno era l'anno delle favole dal mondo del reddito fisso, un tema sicuramente ancora centrale, perché d'altronde gli investitori italiani per la maggior parte sono ancora investiti in obbligazioni, e non si può pensare di portarli tout court all'investimento azionario perché è più redditizio. Quindi bisogna affrontare il tema rivedendolo, ripensandolo evidentemente, perché i tempi sono diversi, perché siamo nell'era dei tassi zero, e abbiamo scritto queste favole dal mondo Reddit Office usando delle favole note e traendo una morale che per noi ha anche un significato evidentemente nel processo di investimento. Mi piace. Esatto, allora sai che faccio? Visto che sei così contenta della scelta che ho fatto questa mattina, ti faccio sentire subito la prima. Abbiamo scelto per esigenze di spazio quella un po' più breve, ma è la prima, quella che apre il libro, il libricino Favole dal mondo del reddito fisso, ed è quella che racconta un po' la morale che viene tratta dalla storia di Biancaneve e Sette Nani, anche se poi, come Laura Nateri ci dirà, Biancaneve è scomparsa da questa interpretazione della favola. Sentiamola. Le obbligazioni sono tutto tranne che uguali. Vengono emesse da entità molto diverse tra loro. Il profilo di rischio rendimento può variare notevolmente. In modo molto simile, i sette nani rappresentano un insieme variegato di personalità diverse. Ognuno di essi è una parte separata del tutto e svolge una funzione individuale ma al contempo fondamentale. Dotto è per natura un leader, Brontolo è lo scettico, Gongolo è quello che ravviva lo spirito di squadra, e così via. Prendendo spunto dalle personalità che formano la squadra dei sette nani, si deve quindi imparare a costruire un portafoglio diversificato di obbligazioni, in cui il tutto è più forte della somma delle sue singole parti. Allora, quando ho letto di questa favola, io pensavo che la morale fosse quella dei tassi bassi, avendo preso i sette nani, no? Invece, poteva essere, no, carina. Esatto, sono piccolini, sono bassi. Perché lei è alta e vede tutti bassi. Sono diversamente bassa io. E allora, avevo così un po' interpretato a mio gusto che la vostra scelta fosse stata quella un po' di dire ai risparmiatori italiani: continuate a raccontarvi la favola che le obbligazioni sono il porto sicuro, l'investimento che va bene per tutte le stagioni, quelle governative soprattutto, ed effettivamente così molti italiani ancora non hanno capito questa condizione di tassi a zero e sotto zero, perché ieri l'asta bot dei titoli appunto annuali ha raschiato ancora il fondo, se possibile, nuovi territori negativi sono stati toccati, oggi abbiamo un altro bel pacchetto di aste peraltro da parte del Tesoro italiano. Invece la morale di questa favola è la diversità, Laura Nateri, perché? Sì, la diversificazione, che è un tema che è stato anche citato e portato ieri alla conferenza inaugurale, a cui anche il presidente Corcos tiene molto. Diversificazione che, al di là dei tassi zero, nel mondo obbligazionario è obbligatorio, se così possiamo dire, perché gli investitori italiani sono da sempre, come tutti gli investitori, più esposti ai titoli governativi del proprio paese, che non necessariamente sono più sicuri. Anzi, da una indagine sulla volatilità dei BTP degli ultimi 10 anni, in realtà i BTP, sappiamo bene, cosa è successo attraverso allo spread il 2011, hanno avuto una volatilità ben superiore a tantissimi altri titoli di Stato di altri paesi. Quindi l'ampliamento dell'universo anche di titoli governativi, da quello italiano a quello internazionale, coinvolgendo anche il grande mondo dei paesi emergenti, che assume sempre di più un ruolo a livello economico e quindi perché non a livello anche di esposizione, è fondamentale. Per esempio, non tutti sanno che il Messico ha un rating creditizio che è migliore di quello italiano. È chiaro che il Messico ci richiama la siesta, No, ma anche al muro di Trump ha altri anche problemi, quindi... però è stato, per esempio, quindi ampliare sicuramente gli orizzonti, diversificare nell'ambito dell'obbligazionario, poi nell'ambito di un portafoglio evidentemente facendone solo una componente, è cruciale, è l'unica strada per tamponare, per assorbire dei cicli ed è una volatilità di mercato a cui oramai ci siamo abituati. Certo, senta, a parte, come dire, provare a farlo con il linguaggio semplice, mutuando anche dal mondo delle favole, della narrazione e quant'altro, ma in realtà, parlando proprio in termini concreti, come si fa a portare il risparmiatore italiano su questa strada, visto che ancora lo confermano tutte le indagini che continuiamo a raccontare non solo da questo salone ma anche in altri momenti della nostra stagione radiofonica? Insomma, come si fa a portare il risparmiatore verso una maggior porzione di rischio, visto che in Italia si fa molta resistenza? E giustamente poi i risparmiatori dicono anche: mi fate assumere dei rischi, in realtà io non li comprendo fino in fondo, le sorprese sono sempre dietro l'angolo, non hanno proprio la prontezza e, come dire, mentale per poter fare questa evoluzione. Allora, passa tutto attraverso l'education, la cultura finanziaria e la consulenza finanziaria, cioè qui il ruolo del consulente diventa sempre più importante, perché il rischio di cui parlavi va spiegato è una percezione del rischio diversa dalla realtà. Cioè il rischio, non, il rischio italiano viene percepito minore perché apparentemente più conosciuto, ma in realtà non è vero. Quindi si tratta di un lavoro lungo, infatti il lavoro dei consulenti è fondamentale, che però deve consentire all'investitore di sentirsi tranquillo anche ad investire e fargli capire che una diversificazione non fa altro che ridurre il suo rischio nel portafoglio, non aumentarlo. Certo. Per cui il ruolo della consulenza, che poi è uno dei temi fondamentali e che in Italia si sta evolvendo fortemente insieme all'industria, ed è l'industria che deve aiutare la consulenza. D'altronde MiFID 2 chiede e chiederà che i consulenti abbiano una professionalità avanzata, così definita. Ci sono i distributori che si stanno muovendo verso una certificazione universitaria delle competenze dei propri consulenti, e questo consentirà ai clienti infatti di accedere e fidarsi del proprio consulente e dell'allocazione diversa da quella tradizionale, che però di fatto è una allocazione meno rischiosa. Intanto, a proposito di MiFID 2, adesso dobbiamo andare al traffico, approfitto per ricordarne che ne parleremo domani con un altro ospite di quello che contempla questa direttiva, appunto, che l'Italia sta recependo e aggiornando, anzi, perché naturalmente la versione principale è già nostra. Intanto le racconto, Nateri, che c'è un ascoltatore che ci scrive che ci vogliono i testimonial per la finanza perché è grigia e noiosa. Utilizza anche un terzo termine, un terzo aggettivo che è un po' meno gradevole, la lasceremo qua. Detto questo, non ha tutti i torti effettivamente, perché non ha la passione effettivamente, bisogna, però come si per premia lo questioni. Sforzo è un modo per avvicinare, esatto. Però la nostra vita ha portato, è la nostra vita la finanza. Ieri Marco Lo Conte diceva bisogna prenderlo in mano il proprio destino economico, esattamente come in tanti altri aspetti della vita, bisogna anche come la propria salute, bisogna occuparsene bene, bisogna occuparsi anche del traffico, non che perché spaventarli. No, ok, a tra poco. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano, mettici alla prova, pantera.it col TH. Vi presenta Cuore e Denari. Seconda giornata di diretta dal Salone del Risparmio. Salutiamo intanto, perché ci è venuto a salutare, il direttore generale di Assogestioni, Fabio Galli, che è dietro alla vetrata. Sì, il microfono magari va, andrebbe, ce l'hai su. Eccolo, eccolo qua. A posto. Non senti. Eccoci qua. Allora, stiamo presentandovi con Laura Nateri, Country Head per l'Italia di Aberdeen Asset Management, il libricino che è reso disponibile per... Ce ne regala qualcuno che lo mandiamo ai nostri ascoltatori? Perché spesso li interroghiamo con dei quizzettoni e apriamo... Per fare un po' le maestrine. Esatto, che gusto, ma no, c'è. Ma per regalare i libri che abbiamo in redazione, quindi volentieri. Magari sarà divertente anche per i nostri ascoltatori dimostrare che ci mettete tutto l'impegno possibile in Atere per essere divulgativi, e non solo quei soggetti che come sempre appaiono sono molto distanti anche dalle persone, dal risparmiatore comune. Molto spesso gli ascoltatori ci raccontano che è così, hanno la sensazione di vivere molto, molto distanti dall'industria finanziaria tutta, dalla consulenza, di non trovare mai il consulente che fa al caso loro perché tutti parlano in maniera difficile. In realtà si prova un po' a colmare questo gap, no? Assolutamente, infatti oggi noi abbiamo l'eccezionale, lo special guest Elio, ma abbiamo anche un nostro strategist, un esperto di reddito fisso che vive in Asia da 20 anni e che quindi viene a raccontare anche in formula semplice, perché poi esistono dei gestori, delle persone, degli speaker che capiscono l'esigenza di un linguaggio semplice, che attenzione, non è la semplicità, non è una diminuzio dei contenuti, è invece la grande abilità di spiegare in parole semplici cose concetti difficili, perché non tutti possiamo essere specialisti di quello che facciamo, ma chi sta di fronte a noi deve capire di che cosa stiamo parlando. Per cui noi con questa formula non vogliamo in nessun modo svilire o diminuire o semplicemente concentrare l'attenzione sul divertimento, ma tra il serio e il faccetto è il modo più facile di apprendere. Io credo che sia una regola base anche per i bambini. Certo. Lo sa che la questione più difficile da capire quando si parla di obbligazioni è comprendere come funziona la dinamica della relazione fra prezzo e rendimento. C'è tra le favole che avete proposto nel vostro libro, quella che lo spiega in maniera semplice, o io non l'ho trovato? Vabbè, a parte questo che la troveremo. Per esempio, i vestiti nuovi dell'imperatore, che morale ci porta? Questa è una morale interessantissima, la morale dell'indipendenza, che è fondamentale nei mercati, perché invece purtroppo voi sapete bene, perché conoscete i mercati, che tutti entrano al picco dei mercati e escono quando scendono, quindi sicuramente portando a casa una perdita. Indipendenza vuol dire non seguire il mucchio, non necessariamente seguire i benchmark, che sono degli indicatori, ma dei parametri di riferimento, non possono essere dei vincoli. Non mi basta dire ho fatto più o meno il benchmark e essere contenta, ma verificare che quello in cui si investe da parte nostra sia qualcosa di affidabile, con delle prospettive di lungo termine, che quindi restituisca al cliente e all'investitore finale dei risultati, dei rendimenti. Per cui l'indipendenza nella gestione è un concetto utilizzato, ma non così diffuso, abbastanza raro. Molti sono molto attaccati al benchmark, che pensano di fare il proprio compitino stando vicino. Noi pensiamo che invece l'investimento sia, e qui mi ricollego a un tema anche importantissimo, quello di governance, sia un mestiere che deve aiutare a cambiare anche il mondo, deve cambiare anche la gestione delle aziende, migliorandola nel standard di corporate governance, di trasparenza. Noi lo stiamo applicando a tutti i livelli, questo vuol dire cambiare la cultura delle società, cambiare il mondo. Infatti, intanto sto continuando a guardare, appunto a sfogliare il libricino delle favole. Abbiamo quella di Sinbad il marinaio. Bene. Che cosa vuol dire? Diversificare anche sulle aree emergenti, come diceva prima a proposito del Messico, oppure che cos'altro? Allargate i vostri orizzonti, è la morale della favola. Abbiate una mentalità aperta, sono proprio un po' quegli ostacoli che dicevamo prima, che impediscono oggi al risparmiatore italiano effettivamente di cogliere qualche opportunità in più rispetto agli scenari finanziari. Si continua ancora un po' a guardare, certo, troppo al mercato domestico. È collegato alla diversificazione, è collegato anche ovviamente alla ricerca, che noi cerchiamo sempre di svolgere in modo proprietario, quindi non fidandoci necessariamente, anzi non compriamo ricerca fuori. Quindi questo vuol dire muoversi, andare a trovare le aziende, andare a trovare anche quei paesi che non sono coperti dal benchmark, quelle società che non sono coperte dai benchmark, le small cap, i paesi di frontiera, piccole capitalizzazioni, sì, piccola capitalizzazione, oppure i mercati di frontiera come quelli africani tipicamente, che sono dei mercati che per esempio anche sul lato debitorio adesso presentano delle opportunità incredibili, ma pochi gestori le stanno ricercando, le stanno analizzando. Voi sì, invece. Noi siamo dei pionieri a questo punto di vista, abbiamo un fondo Frontier Bond Market da più di 3 anni oramai, anche il Frontier Equity Markets. Sono mercati che ovviamente richiedono delle competenze specifiche, perché non ti e puoi soprattutto affidare. Una visione di lungo periodo, una grande pazienza, che è l'altro grande ostacolo mentale del risparmiatore italiano, che in realtà dice di aver pazienza, si dice sempre pronto a, come dire, a stare su un mercato per un determinato periodo di tempo, poi non appena il mercato starnutisce in realtà vuole subito incassare e portare tutto di nuovo sotto il materasso. Voi come player internazionale notate lo stesso questo atteggiamento oppure... Sì, c'è una grossa differenza evidentemente tra i mercati retail e i mercati istituzionali. I mercati istituzionali per antonomasia sono ovviamente più long term, i mercati retail, ma mi sento di dire anche per una questione di cultura finanziaria, sono ancora un po' più volatili e un po' più indecisi, diciamo. Ma sta cambiando molto anche questo, perché nel momento in cui si instaura un rapporto di relazione si capisce che l'investimento va fatto in ottica di lungo periodo, si riesce addirittura a intervenire, entrare, investire nei mercati che scendono, che poi matematicamente dal punto di vista finanziario consente più facilmente di recuperare. Benissimo, abbiamo un minuto di tempo. Nateri, l'ultima domanda naturalmente necessariamente ci porta a guardare anche agli scenari finanziari attuali. Tassi di interesse, mercati obbligazionari, siamo ossessionati dalle banche centrali, da quello che fa Janet Yellen e Mario Draghi. Insomma, che anno prevediamo dal punto di vista delle politiche monetarie? Diamo 2 istruzioni per l'uso ai nostri risparmiatori all'ascolto. Le politiche monetarie, la Fed ha cominciato a rialzare, lo sappiamo, ma nel miglior scenario, se continua a farlo in base alle attese dei mercati, i mercati sono pronti a assorbire questi rialzi dei tassi. Per quanto riguarda il resto del mondo, al di là delle dichiarazioni di Draghi, che è sempre interessato al controllo e alla stabilità dei prezzi, rimangono dei mercati espansivi a livello di politica monetaria. Stiamo semplicemente eventualmente riducendo il QE, il quantitative easing, che l'acquisto mensile di, esatto, titoli di Stato. E lo stesso vale per il Giappone e tante aree. Quindi un diciamo contesto di politica monetaria ancora favorevole. Benissimo. Sono un po' più minacciose alcune incognite esogene con cui dobbiamo fare i conti. Trumpismo, abbiamo paura? No comment. Favole dal mondo del reddito fisso, Aberdeen Asset Management, ve lo regaleremo naturalmente non appena Laura Nateri ci porta una bella scorta di questi libri. C'è il giornale radio. Sì, andiamo. Grazie, andiamo, mille, siete fantastiche. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Cuore e denari. Siamo ritornate. Eccoci qui. Allora, ricordiamo che di favole parleremo anche nella seconda parte della trasmissione. Sì, del potere educativo delle favole, ma soprattutto racconteremo anche la favola che ci ha aiutato a crescere, quella che portiamo nel cuore. Non vorrei spaventare il nostro ospite, no, ma abbiamo... avrà anche lui una favola. Abbiamo utilizzato naturalmente l'argomento favole per provare a spiegare ai nostri ascoltatori che in realtà la finanza si può anche spiegare con dei linguaggi semplici. So che molte società di gestione del risparmio si sono attivate con pubblicazioni proprio per andare nella maniera più divulgativa possibile fra le persone. Mi sto rivolgendo a Tommaso Corcos, presidente di Assogestioni, oltre che amministratore delegato e direttore generale di Eurizon Capital SGR. Ho detto tutto correttamente? Perfetto, grazie, buongiorno a tutti. Lo possiamo considerare un po' il padrone di casa, insomma, lei deve andare a stringere le mani a tutti in questa circostanza, tenere un po' le fila di questo salone molto ricco di iniziative, di contenuto. Ieri c'era il ministro dell'economia Padoan. Il focus fondamentale di quest'anno, presidente Corcos, andiamo subito alla ciccia di questo salone, è inseguire la crescita, risparmio, investimenti, politiche di sviluppo, un tema che calza anche con l'attualità, perché ieri con la sua consueta prudenza anche il ministro dell'economia, appunto Padoan, lo ha detto: l'Italia ha qualche segnalino di recupero, lo sta dando, e il risparmio può dare molto anche al nostro paese per proseguire e rafforzare questo sentiero di crescita. Assolutamente, quello che abbiamo detto ieri con un altro grande ospite che c'era, Martin Wolf. Sì, che è straordinario stare ad ascoltare, starei l'intera giornata a sentirlo, veramente pieno di aneddoti e soprattutto di una grande capacità critica, analitica, e che ti racconta il mondo, quindi molto interessante. Un tema che abbiamo affrontato è stato quello della crescita, come inseguire la crescita, che cosa significa contribuire alla crescita. Quello che ho voluto un po' segnalare è che il grande assente di questo ciclo economico è stata la politica fiscale, non l'ha usata praticamente nessuno. E a si parte... è dovuta sostituire la Banca Centrale Europea. Assolutamente, ai governi. Esattamente, io mi ricordo appunto alcuni libri scritti da, o articoli anche scritti da eminenti personaggi, tipo il vecchio presidente della Federal Reserve, che diceva che alla fine l'unico attore nella città era la politica monetaria. E siccome ormai sappiamo dalle discussioni fatte sia dalla Banca Centrale Americana che dalla Banca Centrale Europea che è arrivato il momento che la banca monetaria, la politica monetaria sta finendo il suo corso, e quindi ci siamo chiesti forse è il momento che, invece di finire così semplicemente, che ci sia un passaggio di testimone verso una politica fiscale, visto che comunque l'amministrazione americana la sta mettendo sul tavolo una politica fiscale più espansiva. Abbiamo detto, beh, forse è il momento che anche l'Europa faccia qualcosa, ma non tanto per ricavare uno o due decimali in più, che comunque non butteremo via, no, direi di no, quanto invece per rilanciare una progettualità europea e un sogno europeo che, come vedete e come vediamo continuamente, sembra un po' essere accantonato. Adesso ci arriviamo alla proposta che ha lanciato ieri presidente Corcos. Andrei un po' con ordine sui temi di questo salone, che peraltro ancora una volta vede un record di partecipazione. Naturalmente siamo a Milano, le grandi istituzioni finanziarie sono qua, quindi devono naturalmente esserci, ma in realtà c'è ancora grande partecipazione da parte del pubblico esterno, che viene a curiosare, a sentire un po' che aria tira, che soluzioni di investimento le società propongono. Che segnale è questo, secondo lei? Io credo che è un segnale positivo, ben straordinario, ed è in linea con quello che oggi Milano rappresenta per l'Italia. Anzi, io stavo pensando che forse dovremmo ancora rafforzare di più il legame Salone del Risparmio con la città. È una proposta che magari presenterò anche al nostro consiglio direttivo per stringere ulteriormente legami con una città che poi rappresenta veramente un motore fondamentale per l'Italia ed è, potrebbe rappresentare un modello cui già altre città si sono ispirate e anzi forse hanno anche dato anche ispirazione. Anche perché con Brexit direi che ci sono delle opportunità da cogliere, si parla molto di portare determinate istituzioni che hanno la sede a Londra appunto a Milano, non so cosa si potrà fare, però forse ecco, quando si deve vedere il bicchiere mezzo pieno delle situazioni un po' complicate, questa forse è una di queste. Assolutamente, poi io lo dico da romano, per cui con tutta l'invidia che vorrebbe, le deve portare vantaggi a Milano, insomma, d'altronde fa dei lavori che la portano in questa città. Allora, inseguendo la crescita, risparmio, investimenti, politiche di sviluppo, questo è l'anno, Presidente Corcos, o Dottor Corcos, a seconda se parla appunto con la casacca di amministratore delegato di Eurizon, dei PIRI, piani individuali di risparmio. Peraltro, ieri, citandoli solo velocemente, già molti ascoltatori avevano fatto delle domande al nostro numero verde che è l'800240024, quindi se si vogliono ricandidare oggi ad interrogarla per chiederle appunto qualche aspetto in più rispetto alla dinamica e al funzionamento di queste nuove, di questi nuovi strumenti di investimento, dicevamo questo è l'anno dei PIR. L'industria è partita veramente a razzo, una soluzione per provare a portare gli italiani su un investimento a lungo termine che si stava accarezzando da anni, quest'anno ha visto finalmente a luce, già quasi tutte le società sono pronte e molte hanno già lanciato le proprie soluzioni. Si aspettava questa partenza così vivace, questo interesse anche subito raccolto da parte del risparmiatore italiano? Me l'aspettavo per il fatto che diciamo, i piani individuali di risparmio hanno tantissimi vantaggi. E uno di questi vantaggi è quello di investire su quella che poi è la struttura ossea sana del paese Italia, vale a dire le piccole e medie imprese che abbiamo visto si sono sempre dimostrate molto reattive quando il ciclo economico è positivo e straordinariamente difensive quando invece il ciclo economico rallenta. E poi soprattutto c'è una componente di diversificazione del 30% che è quella libera da vincoli normativi e che dà la possibilità di diversificare il portafoglio, quindi quel beneficio fiscale sicuramente rappresentava un vantaggio che valeva la pena di cogliere, soprattutto per questo effetto di diversificazione che ti dà la possibilità di investire in prodotti molto ben diversificati e allo stesso tempo godere di un beneficio fiscale. Ricordiamole allora le caratteristiche di questo prodotto, Presidente Corcos. Peraltro voi come Eurizon pure siete partiti, andando? Siamo partiti, siamo molto contenti, abbiamo raccolto oltre 300 milioni di euro, per cui un'ottima partenza. Devo dire, non ci eravamo dati degli obiettivi di raccolta, ma quanto diciamo nasceva la consapevolezza di aver fatto un prodotto ben diversificato, quindi un'offerta coerente, strutturata, e quindi sapevamo che avremmo incontrato una risposta positiva, certo, da parte dei risparmiatori. Allora, intanto c'è il limite dell'investimento, non si possono investire più di 30.000 euro l'anno. 30.000, diciamo, in realtà puoi investire di più, però soltanto 30.000 euro hanno il vantaggio fiscale. Che è proprio la completa cancellazione di ogni fiscalità esattamente, sulle capital gain. Esattamente. Quindi, di fatto, e quindi se uno pensa a un orizzonte temporale di X anni, per cui sta facendo un piano per il figlio, per la casa del figlio, per un desiderio proprio, il fatto di allungare l'orizzonte temporale e di avere al superamento del quinto anno un beneficio fiscale è veramente positivo. Poi l'altro elemento particolare è che comunque se uno dovesse ripensarci e alla fine del primo anno o del secondo o qualsiasi, anche il giorno dopo, dovesse decidere di invece vendere perché è sopraggiunta un'improvvisa necessità, non c'è nessuna penalità, quindi di fatto ripristina la fiscalità ordinaria. Ha fatto bene a precisare questo aspetto, perché molte società appunto che ne stanno distribuendo in realtà hanno percepito tra i risparmiatori proprio un equivoco di fondo, pensano di dover dare, sottoscrivere questo investimento e appunto bloccare questo denaro per 5 anni, del quale poi non possono più rientrare nel legittimo possesso per tutto questo tempo. In realtà non è così, si può disinvestire quando si vuole, come per qualunque tipo di prodotto di investimento, non per tutti, perché le obbligazioni subordinate in realtà sono un po' più complicate da liquidare, o le azioni di banche non quotate, no? Questo un po' tanto per andare anche ai temi di attualità tra i nostri ascoltatori. Quindi in realtà grande flessibilità. Secondo lei porterà un po' di società italiane a quotarsi questa soluzione? Allora, perché l'altra grande sfida è quella, portare l'industria italiana, le piccole e medie imprese in borsa. Noi infatti stiamo spingendo molto, diciamo, tutta una serie di operatori finanziari perché diano il loro contributo per aumentare anche l'offerta e quindi, diciamo, oggettivamente rendere ancora più positivo il loop che abbiamo creato, e credo che la risposta sia stata positiva. Se vedo anche le ultime iniziative e quella che c'è nella linea di offerta, mi sembra che la direzione sia positiva. Comunque, come associazioni abbiamo voluto creare un osservatorio insieme ad altri investitori o altre istituzioni tipo Borsa Italiana, per creare appunto degli strumenti di monitoraggio proprio per verificare lo sviluppo di queste tematiche che stavamo citando, quindi l'efficienza sul mercato primario, quante aziende vengono quotate o meno, e mercato secondario, la liquidità di determinati azioni o titoli, e infine è proprio andare a vedere quanta parte di questo finanziamento che deve essere rivolto alle piccole e medie imprese effettivamente va in quella direzione. Allora, il suo mandato sicuramente si caratterizzerà per il lancio dei PIR, Presidente, e poi probabilmente più avanti anche per l'aver proposto queste nuove soluzioni di investimento. Ieri lei l'ha lanciato appunto questa idea alla tavola rotonda con il Ministro Padoan, i safe bond, per favorire anche in questo caso non più la crescita italiana ma addirittura adesso ha allargato i suoi orizzonti a quelli europei. Ci racconta un po' che cosa ha in mente? Assolutamente, mi faccio soltanto dire che spero che il mio mandato si caratterizzi non soltanto per i PIR ma anche per la corporate governance, dove abbiamo fatto penso un grandissimo lavoro, poi se vuole lo racconto, e anche sull'iniziativa del capitale umano, della quale sono molto orgoglioso. La governance magari è un po' complicato per i nostri ascoltatori, ma sul tema del capitale umano, perché ci il lavoro molto. È il nostro grande cavallo di battaglia, ci andiamo sicuramente. Sono ben contento. E poi sempre nei temi a cui facevamo riferimento prima, politica fiscale, come inseguire la crescita, una domanda che ci siamo fatti è: bene, ma noi come industria del risparmio gestito cosa possiamo fare per dare un effettivo contributo a questo progetto europeo? E alla fine ho detto: bene, forse come istituzioni finanziarie europee, come asset manager europei, Eurozone è una di queste, però ci sono tanti altri, c'erano tanti altri protagonisti ieri nella sala principale. Era la plenaria, d'altronde. Assolutamente. Tutti lì. Ha fatto l'appello all'inizio. Ho fatto l'appello, li guardati uno a uno negli occhi, ho detto: vi vengo a stanare. E alla fine ho detto: bene, ma perché non ci coalizziamo almeno gli asset manager europei per andare a parlare, una coalizione positiva ovviamente, per andare a parlare con i regulators e promuovere questi safe bonds? Cioè praticamente sono degli strumenti collateralizzati da obbligazioni governative che già esistono sul mercato, non c'è un principio di mutualizzazione, per cui comunque i tedeschi non dovrebbero essere contrari, ogni paese è responsabile della sua tranche. L'unica differenza è che praticamente vengono raggruppati le obbligazioni governative così come e poi rivendute sul mercato su una tranche senior e una tranche junior. Quindi diciamo c'è un concetto, che perdonatemi la terminologia inglese, di pooling, dove appunto pooling vuol dire che i titoli vengono comprati e raggruppati insieme, ritrasformati in un nuovo titolo che ha come sottostante ogni piccola obbligazione che rappresenta il PIL di ciascun paese da un punto di vista percentuale. Capisco che i sottostanti siano le obbligazioni. Questo meccanismo, Presidente, forse è un'obiezione che magari più avanti le faranno anche, ma è già la curiosità che mi balza sentendola raccontare questo meccanismo di confezionamento. Esattamente, di questi prodotti. Confezionamento. Esattamente. Mi vengono in mente le cartolarizzazioni. Bravissima. Dei mutui subprime americani. Però. Bravissima, però attenzione. È vero, però è chiaramente come tutte le cose, dentro una confezione è importante che cosa ci metti dentro. Se tu mi stai mettendo dentro non il mutuo dei subprime, dove comunque ogni obbligazione aveva la sua terminologia, la sua standard, non c'era una standardificazione del pricing e di tutto, non era un processo trasparente. Qui stiamo parlando di titoli governativi che hanno una chiara rappresentazione da un punto di vista di prezzi sul mercato e quindi una trasparenza totale. Quindi è di fatto tu stai riconfezionando degli strumenti che sono per loro natura straordinariamente liquidi. La cosa che stai trasferendo e stai cercando di cambiare è il concetto non più di paese Portogallo, Spagna, Italia, debole, verso un paese forte tipo Germania o Olanda, ma stai cercando soltanto di trasformare un concetto, di dire bene, siamo all'interno di una unione monetaria e abbiamo due tranche, una tranche senior, quindi super protetta, che rappresenta il mondo del super safe, dei super del super rating, salvo, molto alti, esattamente, maggiori. E poi c'è una tranche più junior che invece rappresenta, che è quella dei paesi che spendono tutto sì, in donne, però sono tutti raggruppati, come per utilizzare donne e birra esattamente. Però poi invece facciamo il salone del mobile con 350.000 che vengono da tutta l'Europa. Esatto, no vabbè, ma quel folklore là, diciamo, io l'ho riproposto, ma lo lascerei lì. Probabilmente aveva bevuto troppa birra. Può darsi, esatto. Qua ci siamo tolti un sassolino dalla scarpa. Sì, esatto. Detto questo, insomma, le junior avranno queste caratteristiche. Le junior i paesi con il rating differente. Sono tutti raggruppati insieme. Cioè, quindi la junior e la senior verranno rappresentati, avranno una rappresentazione pari alla quota del PIL di tutti i paesi. L'unica cosa, il vantaggio che c'hai è che comunque questi spostamenti, per cui uno si muove dall'incertezza al posto sicuro, non avverrà più tra Portogallo, Grecia verso Germania e Olanda, ma avverrà dalla tranche junior alla tranche senior, o dalla tranche senior alla tranche junior, a seconda del in che mood uno sta. Vi seguiremo molto attentamente nell'evoluzione di questa idea. Ministro Padoan ha espresso un po' di prudenza e di cautela necessariamente, ma lei la vedo molto con le idee chiare. Sì, perché diciamo Padoan giustamente lui ha voluto richiamarci alla contingenza del momento. Lui dice il 2017 è un anno in cui probabilmente non ti ascolta nessuno, ci sono le elezioni francesi, Quelle tedesche. Le elezioni tedesche, anche se uno va là e gli dice attenzione, guardate, qua nessuno chiede di condividere le spese di condominio, ognuno paga le sue. Però capisco che appena uno sente euro non bonds ci sente male. Non è il timing giusto, esattamente. Però io non vedo oggettivamente un problema di autorizzazione legato al fatto che nessuno chiede di condividere nulla, ognuno è responsabile per la sua quota. Allora, quando partiranno, Presidente, noi saremo ben contenti di poter dire, vi avevamo già raccontato tutto con largo anticipo. Fantastico. E di tenere a battesimo il safe bond, appunto, di matrice italiana. Andiamo invece all'altra grande iniziativa alla quale so che lei tiene molto. Assogestioni ha lanciato Il tuo capitale umano, che ha l'obiettivo di provare ad attirare i giovani verso i mestieri della finanza, diciamolo un po' così in termini larghi. Ci sono più di 20 società di gestione del risparmio che stanno organizzando sul territorio tanti incontri, iniziative, c'è la collaborazione con l'Università Bocconi. Che cosa volete fare esattamente? Perché quando parliamo di mestieri legati un po' all'industria finanziaria, noi ancora ci ricordiamo dei bonus stratosferici dei banchieri, un po' c'è ancora questo pregiudizio legato a questo mondo, pregiudizio per chi lo vive, insomma, un gran vantaggio naturalmente. Però detto questo, concretizzando invece la vostra idea... Sì, diciamo che l'idea nasceva dal fatto, innanzitutto da un'osservazione molto semplice. La prima osservazione era che l'industria del risparmio gestito, nonostante il fatto che sia cresciuta a ritmi piuttosto elevati, ieri abbiamo fatto vedere dei numeri per cui rappresentiamo il 124% del prodotto interno lordo da un punto di vista delle masse gestite. Quindi siamo un'industria forte, vitale, e che potrebbe fare anche qualcosina di più per il paese. Certo. E soprattutto l'altra cosa, osservazione che avevamo fatto, è che comunque nonostante sia stata un'industria che è cresciuta nel corso degli ultimi anni, in realtà ha visto una contrazione degli addetti che lavorano effettivamente nell'industria. Allora uno dei punti hanno dovuto affrontare mari in tempesta, magari più fragili, più deboli, si sono un po' allontanati, perché anche fare consulenza finanziaria in questo momento alle persone non è che sia stata proprio una passeggiata. Non è stata una passeggiata, esattamente. Per cui alla fine abbiamo detto, come a suggestione, ha detto bene, però sarebbe bello riproporre il tema dell'importanza dell'industria del risparmio gestito presso le università italiane. E quindi abbiamo fatto un giro d'Italia, infatti ho fatto vedere ieri una mappetta, non so se ho rispettato il logo di Banca del Giro d'Italia, ma era una mappa rosa in cui c'erano dietro i loghi delle 10 tra le migliori università italiane, e quindi abbiamo girato tutto, siamo andati in sud, siamo andati a Bari, siamo andati a Napoli. Di che professionalità c'è bisogno? Insomma, se stamattina stessimo attirando un po' l'attenzione di qualcuno che è pronto a inviare un curriculum, ma magari adesso daremo anche le informazioni se c'è un link dal sito di Assogestioni appunto per poterlo inviare? Beh, diciamo tutto il mondo che fa riferimento a scienze economiche o parte finanziarie, eccetera, quello è il mondo cui guardiamo con interesse. E abbiamo avuto una straordinaria risposta, perché abbiamo avuto oltre 800 curriculum che sono stati processati e selezionati dalle varie strutture dell'SGR che hanno partecipato a questo progetto. E domani ci sarà questo incontro. È tutto un progetto per neolaureati e studenti, sì, assolutamente, quindi non per chi ha già un curriculum, no, già con qualche formazione di base nell'industria finanziaria. Ma in ogni caso, anche per chiaramente se hanno magari 2-3 anni, non so quanto possa interessare a loro, perché stiamo parlando di un percorso che vede uno stage, per cui è più adatto a studenti che stanno per finire o hanno finito. Per cui credo però sia un ottimo passaggio, perché ti dà la possibilità di inserirti immediatamente nel mondo del risparmio gestito. Appunto domani c'è questo incontro, e poi il terzo momento è quello proprio della selezione, in cui l'SGR hanno selezionato i ragazzi più rispondenti alle loro necessità, più col curriculum probabilmente migliore, e alla fine sono pronti per iniziare lo stage. E in più a suggestione fa proprio un induction, che significa praticamente un inserimento sulle principali tematiche che riguardano il mondo del risparmio gestito, quindi una giornata piena con queste iniziative. Benissimo. Quindi credo una gran cosa. Ci piace questo presidente molto, che si sporca le mani anche con delle iniziative, non vive solo sulle nuvole della finanza, perché veniamo ancora un po' percepiti così, no? Lo dicevo prima anche con Laura Natteri di Aberdeen, la finanza viene ancora un po' percepita come profondamente lontana dalle esigenze delle persone. Ieri abbiamo presentato lo studio di Demia, che avete presentato anche voi appunto nel corso appunto delle vostre iniziative del primo giorno, e ci racconta che addirittura l'82% degli interpellati in questo sondaggio si sente un po' abbandonato da tutti, dalle istituzioni, dalla politica, oltre che della finanza, per cui questa percentuale la dobbiamo abbassare e la finanza deve fare qualcosa. Un'altra sfida. Il risparmio è prezioso. È vero, d'accordissimo. Presidente Cortos, grazie mille. L'interrogazione è terminata, mi mancava solo di chiederle, andiamo a prendere un caffè. Noi abbiamo anche il convegno di Radio 24 domani, ci teniamo che ci venga a salutare alle 14.15. Ci sono, grazie mille. Grazie. Buona giornata a tutti. Tommaso Cortos, presidente di Assogestioni e amministratore delegato di Horizon Capital. Io devo parlare ancora un po' perché ho la borsa adesso. Sì, poi arriverà Alberto Pellai, medico psicoterapeuta molto amato dagli ascoltatori di Cuore Denari e non solo. I suoi libri sono in vetta alle classifiche. Parleremo di nuovo di favole che hanno aiutato a noi a crescere e forse stanno aiutando i nostri bambini. A tra poco. A tra pochissimo. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Cuore e Denari. E siamo tornati insieme, siamo ancora al Salone del Risparmio, Deborah. Certo, qua in vetrina ci sono molti ammiratori di Deborah che ci vengono a trovare. Ma non dire così, così che io sono i nostri, saluto, mandiamo baci, non ci risparmiamo al Salone del Risparmio. E continuiamo a parlare di favole. Abbiamo aperto questa puntata con le favole che aiutano a introdurre i temi finanziari, ma noi tutti sappiamo bene che ci sono favole della buonanotte, favole contro i capricci, favole per sconfiggere le paure. Insomma, la favola è uno strumento prezioso che, se ben utilizzato, ci permette di fare buoni investimenti per il benessere dei nostri bambini. Ne parliamo oggi con Alberto Pellai, che finalmente è tornato a trovarci, medico ricercatore all'Università di Milano, psicoterapeuta e scrittore in cima alle classifiche. Alberto, ciao! Ciao Nicoletta, ciao Deborah, buongiorno. Ciao, a tutti. Buongiorno. Tu sei veramente un uomo tsunami, Alberto. Eccomi qua. No, ma adesso sono proprio un uomo tranquillo, pronto a raccontarvi le favole di cui avete bisogno oggi. Intanto noi vogliamo chiedere anche ai nostri ascoltatori la favola che portano nel cuore e la favola che è la più gettonata dai loro bambini. Mamma o papà, raccontami una storia. Alberto, è un momento molto importante quello della narrazione della favola ai nostri bambini, e devo dire che raccontare le favole fa bene a chi le racconta e a chi le ascolta. Sì, le favole, le storie in generale, ecco, dovremmo dire che ci sono le favole e le fiabe. Le fiabe sono proprio dei racconti con cui noi incantiamo i nostri bambini, delle narrazioni spesso piene di magia, in cui il bambino magari attiva anche delle emozioni molto intense e fondamentalmente entra in una storia che ha un inizio, uno sviluppo, una fine. Le favole invece a volte sono storie che noi scegliamo per educare i nostri bambini, proprio classicamente ricordiamo quelle di Fedro o di Esopo, ma spesso sono proprio quelle storie che noi scegliamo per un obiettivo educativo, per ottenere un fine, le favole della buonanotte, per farli addormentare bene, le storie della pappa, per far sì che mangino quello che hanno nel piatto. Ecco, e la storia detta da una mamma o da un papà o da una persona che si prende cura del bambino ha il vantaggio poi che è una narrazione che avviene all'interno di una relazione e quindi fa sentire il bambino protetto, rassicurato, contenuto all'interno di quell'abbraccio metaforico che è quello in cui noi, quello che gli offriamo quando gli raccontiamo una storia. Certo, le favole parlano, le storie parlano al cuore, nutrono il cervello. Avevamo proprio dedicato spazio a raccontare i risultati di quelle ricerche che dimostrano che ai bambini in età prescolare la favola, la storia mostra, attiva una maggiore vivacità dell'emisfero sinistro del cervello che è quello che i ricercatori ci raccontano a proposito predisposta al linguaggio e all'immaginazione. Alberto. Sì, le favole e le storie fanno proprio questo, sono una sequenza di parole che però nel loro insieme evocano immagini molto molto potenti e dalle immagini poi il bambino trae vive un'attivazione emotiva che non esisterebbe se non ci fosse stata quella storia ad accenderla. Quindi hanno il grande vantaggio da una parte di ampliare proprio le conoscenze cognitive del bambino, cioè gli permettono di ampliare il suo linguaggio, di fargli imparare parole nuove, ma allo stesso tempo aumentano anche la capacità del bambino di entrare nelle narrazioni, cioè di trasformare le parole che ascolta in un racconto e quel racconto accende nella sua mente immagini, le immagini stanno in un'area completamente diversa dal cervello e quindi complessivamente noi quando raccontiamo una storia al bambino attiviamo reti neuronali differenti che si integrano fra di loro e che danno poi il risultato dell'esperienza, dell'emozione, della sorpresa, dell'attivazione. Allora, intanto vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori se le favole le inventano o si affidano al repertorio classico, in quale momento della giornata le utilizzano e per che cosa. E poi insieme ad Alberto cercheremo di capire se ci sono delle differenze tra le favole o le storie che noi raccontiamo, quindi una favola che si basa proprio sull'utilizzo di parole o immagini descritte dalle parole, o le favole che leggono i nostri bambini su un libro, magari affiancate dal genitore, o le favole che si raccontano attraverso le immagini. Perché, Alberto, ci sono tante modalità. Intanto ci sono i nostri ascoltatori, non so se ne abbiamo già in linea uno, Antonio, ma potete come sempre intervenire al 349-238-6666. Alberto, si leggono, allora, si guardano o si osservano? Di solito quando noi proponiamo una storia, soprattutto attraverso i libri, ai bambini in realtà gli offriamo tre cose: delle parole scritte su delle pagine, allo stesso tempo delle immagini che servono a documentare con figure, con disegni, quello che sta scritto nelle parole, e poi offriamo la nostra voce e la nostra relazione di noi adulti al loro fianco con un libro in mano. Quindi le parole arrivano alla parte alta del cervello, potremmo chiamarlo il nostro cervello cognitivo. Le immagini invece arrivano alla parte bassa, che è il nostro cervello emotivo, e la relazione, il contenimento, la nostra voce arrivano un po' a tutte e due, sono proprio una sorta di ascensore che permette di collegare le emozioni che provo con i significati che voglio dare a quella storia che sto ascoltando da te. Senti, leggevo proprio un'intervista di Grossman che scriveva: crescere oggi è dura, servono più favole, servirebbero anche a noi. Infatti Deborah ha aperto proprio con la sua ospite per dire che la finanza viene oggi raccontata anche attraverso le favole, quindi proprio questo potere educativo delle favole. Ma Grossman molto probabilmente si riferiva a quello che un tuo collega statunitense definisce il pensiero narrativo. E sarebbe proprio la capacità cognitiva attraverso cui le persone strutturano la propria esistenza e le danno significato, e questo è proprio un potere che viene riconosciuto alle favole. È proprio così, cioè direi che quello che dice Grossman, noi abbiamo bisogno di storie per vivere meglio, è molto molto importante. Questa è proprio una di quelle parti che in questo momento per i nostri figli, per i nostri bambini è più deficitaria nel loro percorso di crescita. Abbiamo una tendenza fortissima a farli stare nell'azione, a insegnargli tante cose da fare, e spesso invece non ci occupiamo più invece delle narrazioni. La narrazione è una cosa completamente diversa. Se il bambino agisce, sta facendo qualcosa. Se il bambino invece ascolta una narrazione, sta, ed è la sua mente che agisce, cioè che trasforma quella narrazione in un percorso interiore. Il percorso interiore è molto molto importante, perché noi abbiamo una consapevolezza di noi e anche una vita migliore, non quante più cose sappiamo fare, ma quanto più noi siamo capaci di narrare noi stessi a noi stessi, e quindi di costruirci un'idea di noi nel nostro mondo interiore che sia poi basata sulla consapevolezza e naturalmente una buona immagine che costruiamo di noi dentro di noi. Allora, Antonio ci sta chiamando da Anzio all'800 24 00 24, quindi lo portiamo al Salone del Risparmio. Buongiorno Antonio, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Io nel mio piccolo volevo parlare di una favola che ho ascoltato da bambino e che poi ho raccontato a mia volta ai miei figli e anche ai miei nipoti, perché ormai sono nipoti. La favola della signora Matilda è una favola molto conosciuta, ma molto indicativa per il vostro argomento di oggi, insomma, il vostro argomento di tipo economico. Ecco. Perché è una favola alla cuore denari, perché sfrutta il potere terapeutico educativo delle favole, ma aiuta anche a una valenza economica, insomma. Antonio. Certamente sì. È una favola molto nota, non è una cosa sconosciuta, semplicemente. Alberto, la conosci la favola della signora Matilde? No, devo dire che a me non l'hanno raccontata, quindi io non posso raccontarla. Ecco, quanto siamo stati segnati dalle storie. Antonio, ad esempio, questa favola la ricorda, l'ha insegnata, l'ha raccontata ai suoi figli e la sta anche riproponendo ai suoi nipoti. Ci sono delle favole che ci hanno lasciato un po' il segno, ci hanno orientati. A volte ci sono anche delle favole che ci hanno fatto anche paura, Alberto. Ma quello è ciò che si attiva tipicamente soprattutto dentro alle fiabe. Le fiabe sono delle narrazioni che ci portano spesso in un luogo magico all'interno del quale avvengono cose connotate un po' dalla magia, quindi lontane dal principio di realtà, e che però hanno come risultato quello di attivare dentro di noi paure molto profonde. Se noi pensiamo alle fiabe classiche, Cappuccetto Rosso, Cenerentola, Biancaneve, vediamo che dentro ci sono proprio i temi in qualche modo più emozionanti, più attivanti, il tema dell'abbandono, si pensi a Pollicino, no? E a quanto la paura di perdere mamma e papà o di essere abbandonati da mamma e papà sia grande in ogni bambino, e è una paura così grande che non può essere raccontata, a volte non può essere neanche pensata, però profondamente viene sentita. Allora dentro una fiaba classica proprio della tradizione queste paure possono essere viste al di fuori di sé, raccontate, narrate all'interno della storia di un altro bambino, e la fiaba poi ha il grande vantaggio che c'è sempre il lieto fine e vissero sempre felici e contenti, e quindi è come se noi entrassimo proprio dentro un tunnel che ci fa toccare le nostre paure più profonde, in parte però un po' ce le elabora e ce le risolve e ci permette di ritornare in una zona di tranquillità. E poi ci sono ad esempio delle varianti, perché ricordo che quando raccontavo le favole, quando mi davano i personaggi, poi le raccontavo un pezzo, le raccontava la mia bambina più grande, poi cambiavamo quella più piccola, alla fine, si partiva dalla principessa e si finiva con tutt'altra situazione. Anna Maria, buongiorno da Genova, e subito dopo Giancarla da Milano, ma tra le due, no, devo dire che prima di Anna Maria e di Giancarla abbiamo le informazioni sul traffico. Andiamo e torniamo dal Salone del Risparmio tra poco. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta cuore e denari. Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vero. Eccoci tornati insieme oggi in questa seconda parte del programma al Salone del Risparmio di Milano e stiamo parlando di favole. Abbiamo iniziato a parlare di favole e concludiamo sottolineando il valore educativo della favola. È uno strumento che in qualche modo tiene viva e crea una bella relazione. E di favole, insieme ad Alberto Pellai, parliamo oggi con Anna Maria da Genova e Giancarla da Milano, che abbiamo fatto attendere, anche se è unito Giorgio da Genova. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno, buongiorno dottoressa. Volevo parlare appunto, se era possibile, con il dottor Pellai della favola che tutte le sere viene letta, più che raccontata, letta alla mia nipotina di 5 anni. Sì. Che però ci siamo accorti che non è così interessata al contenuto della favola, ma lei vuole soprattutto che qualcuno si dedichi assolutamente a lei. È un momento suo e a quello lei non vuole rinunciare. Poi ci siamo accorti che il contenuto della favola poi alla fine non lo riesce a trattenere. Non è che fa tanto la differenza. Anna Maria, grazie, stia lì che sentiamo anche Giancarla, così io alleno anche la memoria e l'attenzione di Alberto. Pellai, perché ho intenzione, Alberto, di fare una così infornata di domande. Giancarla, buongiorno da Milano. Buongiorno, che cosa deve dire ad Alberto Pellai? Allora, perché ho capito che puntate dritto a lui. Sulla potenza della favola e anche sull'ultimo intervento dell'altra ascoltatrice. Io molte volte sono stata delusa dalla potenza della favola, qualche volta l'ho trovata molle quando le raccontavo ai miei figli, cosa che mi piaceva moltissimo. Ho cambiato completamente opinione leggendo un libro, secondo me, illuminante e veramente emozionante, che si chiama Donne che corrono con i lupi, in cui l'autrice, che è una psicoterapeuta, ha recuperato le versioni originali attraverso un lavoro di ricerca incredibile di le favole più note, anche quelle meno note, e ha creato ha ritrascritto delle favole incredibili. Io mi ricordo questo episodio con una mia amica, i miei 2 bambini e il suo, tutti che piangevamo, ma emozionati anche quindi, dalla gioia. Ecco, vede come quando si dice mi è piaciuta tanto, pianto molto. Allora, grazie Giancarla per questo suggerimento, io il libro non l'ho letto ma mi ha fatto venire curiosità. Io ce l'ho pure, non l'ho ancora mai letto. Alberto, intanto Anna Maria e Giancarla, poi se c'è tempo andiamo a Giorgio da Genova, perché a proposito di libri voglio parlare di un libro che mi sta particolarmente a cuore. Alberto? Ma direi che la nostra ascoltatrice Anna Maria in realtà ci ha proprio anche fatto vedere come la favola è un rito relazionale. Quando noi parliamo di storie della buonanotte, effettivamente non stiamo tanto attenti al contenuto della storia, quanto facciamo attenzione a dare attraverso una storia un rito nella relazione col bambino che lo faccia sentire protetto e sicuro e che gli permetta poi di addormentarsi nel sonno. Ed è proprio vero, come diceva, che per esempio Donne che corrono coi lupi è proprio una collezione di storie che non hanno quella potenza magari brutta di alcune storie che magari erano troppo potenti, cioè le fiabe della tradizione a volte sono veramente anche piene di particolari molto molto troppo paurosi, a volte troppo terrorizzanti, e lì dentro invece ci sono delle narrazioni molto emozionanti all'interno delle quali è possibile proprio attivare, dentro un concetto di potenza diversa, emozioni intense. Emozioni intense che ci aiutano anche a così affrontare dei temi complessi, e mi sto riferendo al libro che tu hai appena pubblicato con Barbara Tamborini, si intitola A mare, vieni con me a Lampedusa, e per De Agostini. È una storia in cui raccontate ai ragazzi un tema complesso come quello dei migranti che arrivano in Italia con i barconi. E direi che oggi, che il mondo è così complesso e che ogni giorno arrivano notizie che sono piene di dolore, a volte anche di guerra e di morte, per i nostri figli le storie diventano importanti anche nell'età dell'adolescenza, e trovare quindi dei modi, dei meccanismi, dei percorsi per far arrivare a loro dei messaggi che forse la realtà presenta in modo troppo duro, troppo complicato per arrivare a loro. Alberto? Sì, è proprio così, in questo mondo complesso succedono molte cose e spesso i nostri figli restano soli oppure indifferenti oppure davvero troppo spaventati. E quindi in questo momento la narrativa per i ragazzi è davvero tanto concentrata anche sull'offrire a loro delle storie all'interno delle quali si possano riconoscere, identificare, emozionare, ma soprattutto possano costruire un pensiero tranquillo, solido, sicuro e anche cooperativo, cioè muoverli da quella sensazione di paura e impotenza e attraverso una storia portarli in una posizione dove riescono a comprendere meglio la complessità del mondo, ma riescono anche a sentire che anche loro, con quello che dicono, con quello che fanno e con quello che sono, possono costruire un mondo migliore. Abbiamo Giorgio da Genova. Buongiorno Giorgio, in chiusura. Buongiorno. Io mi faccia dire riguardo... chiudiamo in bellezza, Giorgio, non mi deluda. Speriamo. Io ho una bambina di 6 anni e raccontare le storie, oltre che ovviamente essere un piacere, è diventato quasi un lavoro. Perché lei le storie le vuole vivere a pieno, quindi le nostre storie sono diventate delle specie di saghe che si ripetono per una settimana a puntate, 10 minuti, guardi, quarto d'ora, tutte le altro sere. Che Lost, è vero. Addirittura a lei piacciono molto quelle che ormai chiamiamo storie gioco, cioè la storia va avanti, poi si arriva ad un certo punto durante la storia, ce n'è 5-6 durante tutta la storia, in cui lei deve scegliere se il protagonista deve prendere, non lo so, ad esempio una strada invece che un'altra, incontrare un personaggio. Guardi, sono dei personaggini belli strani, belli tosti, sono loro che allenano noi. Ma pensa noi. A lui, brava, che esercizio mentale fa Giorgio. Sì, noi vorremmo parlare a lungo, ma dobbiamo salutarci, non possiamo raccontarne oltre. Intanto salutiamo Alberto Pellai, che è stato con noi. Ricordiamo il titolo del libro di cui parleremo presto, Amare, vieni con me a Lampedusa, di Alberto Pellai e Barbara Tamborini, per raccontare il tema dei migranti. Segnatevi questo titolo. E tu, Alberto, segnati in agenda che devi venire qua in studio da noi. Magari non qui al Salone del Risparmio, ti riportiamo a quello tradizionale. Grazie. Domani di nuovo qui. Noi siamo domani di nuovo qui, parleremo anche di terapie finanziarie, Nicoletta. Non c'è niente da fare, sempre più intrecciati. Vedi? Salute e soldi. E io vi parlerò di un terapista importante per la nostra salute. A domani, buona giornata a tutti.